voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. Oh, no, no, no, I was... Mom, wait! I was... Lei si chiama Holly Throsby, uno dei nomi nuovi che questa settimana trovate nelle playlist di Eclettica. Ce la siamo ascoltata con questo album che è già pubblicato da altre parti del mondo da parecchio tempo, è arrivato nelle mie mani solo di recente, esce per un'etichetta che di nome fa Spunk Records sotto licenza della WUMI. Under the Town è il titolo dell'album per l'artista di Sydney, dal quale io ho estratto la traccia numero 2, Making a Fire. Eclettica che prosegue invece con un nome che già dalla settimana scorsa avete imparato ad ascoltare e magari associare anche a come è scritto. Deriva dal danese, quindi non è di immediata comprensione. Io stesso mi sono dovuto far spiegare, scrivere una sorta di modo di pronunciarlo in modo di essere sicuro di non sbagliare. Dailit è il nome della formazione, ma non sono danesi, sono italiani a tutti gli effetti. In pratica sono lo sbilenco progetto, loro lo definiscono così, di Matteo Dainese, che è già stato negli Ulaanbaatar, negli Here, nei Meathead e fermo qua la lista, ed Enrico Molteni invece degli Tre Allegri Ragazzi Morti. Escono col numero di catalogo 1 per la Matteite e noi ci ascoltiamo proprio il brano che apre l'album, Beat the Gong. She So pass over this rack transfer, like a burnt trash fusion of blood. She needs her seventh year back, watching the last one rest on the surface. Just tell me, please, what's the matter with you? The difference between us. Just tell me, please, what's the matter with you? And them, them and me, and you and me. There's nothing I can tell you when you have no place to go. E ancora una volta, come in una infinita railroad station, si cambia. Ma non per carpi su Zara Mantova, non solo appartamento o quartiere, non quadrante o sestiere, non da via Pistolazzi a via Fracazzo da Velletri, non da qui a lì. Cambi tutto, todo, definitivamente, cambi città, esempio la Despedida. Questo era l'incipit di Cittanova Blues, di Francesco Guccini. Non c'è niente di giovane dentro una droga, proprio niente di giovane dentro una droga. Corto

Oh, for God's name, say È uno di quei momenti all'interno di Eclettica in cui bisogna fare il punto della situazione, visto che è un po' che non sentite la mia voce, la voce di Giulio Caperdoni. Per esempio, per quanto riguarda il film, non è che io sempre di indicazione su qual è il film che state sentendo in termini di spezzoni, magari a volte dovete per forza aspettare l'arrivo della playlist per capirne di più. Però quest'oggi magari non vi do il titolo, però vi do indicazione che i due spezzoni che vi siete ascoltati in questa seconda parte di Eclettica vedono Ben Stiller, non so se l'avete riconosciuto, alle prese con... com'è che la posso dire? Alle prese con una cerniera lampo, direi di sì. Ecco, il film è quello dove lui, a casa della sua ragazza, si fa aiutare un po' da tutti per cercare di uscire da una situazione che perlomeno è molto imbarazzante, poi è anche molto dolorosa. Dal punto di vista della musica, noi ci siamo ascoltati in ordine prima gli Aretini de Gumo, che escono per Midfinger con un disco dal titolo Are You Sure I Couldn't Be, il titolo del pezzo che questa settimana passerà anche come pillola, per poi passare alla band di Portland, Oregon, che però si sono cosparsi di aria da Calexico, andando a Tucson in Arizona a registrare il loro nuovo disco. 13 Cities è il titolo dell'album, il tiradito invece è il titolo dello strumentale che ci siamo appena ascoltati. Ed ora ritorniamo su un artista che incide per Fat Cat Records, che della settimana scorsa ci stiamo ascoltando. Lui si chiama David Carsten Daniels e dal suo album Sharp Teeth il brano che io ho scelto è la traccia numero 1. Si tratta di The Dream Before the Ring That Woke Me. Thank you. Eclettica, fine della seconda parte.